X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giulio Tremonti, 66 anni, politico, avvocato, accademico, più volte ministro dell'economia e delle finanze nei governi Berlusconi, di famiglia liberale, si avvicina ai socialisti dopo il militare fatto da soldato semplice, presidente dell'Aspen Institute, ha combattuto la globalizzazione selvaggia sostenendo l'esigenza di misure di protezione nei confronti della Cina, favorevole a una nuova cassa del Mezzogiorno per raccogliere e investire soldi appunto nel Mezzogiorno. Nel 2008 propone la Robin Tax sui profitti delle compagnie energetiche, soldi da investire poi in servizi per la povera gente. Oggi è qui perché ha scritto un libro, Bugie e Verità, che fa discutere. Senatore Tremonti, si può fare politica ad avere potere come ha avuto lei senza dire bugie? Qualche volta deve dirle, per esempio, cosa molto politichese, nel 2010, quando Fini esce dal governo, dalla maggioranza, io ho detto il governo continua forte come prima. Senta, ma c'è una bugia che non vorrebbe mai aver detto, allora questa. Per esempio. E per esempio lei ha mai sperato di sostituire Berlusconi? No, assolutamente mai. No, quella è una... Non è neanche una bugia. Una balla che raccontano in giro, appunto, non è neanche una bugia. Restiamo a verità e bugie. Senta questo servizio del TG7. Hans Werner Sinn, considerato dal Financial Times il migliore economista tedesco, nonché uno degli uomini più influenti del suo paese, ha detto: Berlusconi, nel novembre del 2011, quando era premier, avviò trattative in sede europea per fare uscire l'Italia dall'euro, avvalorando quindi quella tesi che vuole che Napolitano abbia chiesto a Berlusconi di farsi da parte su pressione dei poteri forti europei, vago concetto che di solito include la Germania, la Francia, la Commissione e la Banca Centrale Europea. Una cosa è certa, quel che avvenne nell'autunno del 2011 è un capitolo poco chiaro della storia recente. Verità? Bugia. Bugia. Ma non sapeva un tubo. Allora, il golpe contro Berlusconi c'è stato... Lei dice dolce, cosa vuol dire? No, allora, dolce colpo di Stato è una frase usata da Jürgen Habermas, uno dei più grandi, certo, e di sinistra filosofo tedesco. E c'è stato o no il golpe? Guardi, la storia è un po' diversa, o meglio, fuori dalle barzellette che girano, sì, e dalle storielle che girano. La verità. La verità è questa. La crisi finanziaria americana impatta sull'Europa nel 2008 e fa saltare le banche del nord che erano piene di titoli tossici americani. E quindi? Germania, Francia, Inghilterra, Benelux, eccetera. Vengono usati i soldi pubblici, i bilanci pubblici vengono usati per salvare le banche private del nord. Italia zero. E quindi si usa l'Italia, si scarica sull'Italia, no, questo? Cavolo, almeno questo devo dirlo. Lo dica. Primo mostro, io ho sempre detto la crisi è come un videogame. Arriva un mostro, lo batti, ti rilassi, arriva il secondo mostro. Il primo mostro è stato il subprime americano, esploso nelle banche del nord. Il secondo mostro è stato quando sono saltate la Grecia, la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda, piene zeppe di nuovo di crediti fatti dalle banche tedesche. Almeno questo lei ha detto che dovevo e potevo dirlo, quindi ancora mezzo minuto, poi recuperiamo. Il secondo subprime, il secondo mostro è quello europeo. L'euro appena è stato inventato, euforia e nessun controllo dalla BCE, esplode di nuovo un caos pazzesco nelle banche del nord che stanno fallendo, la Germania e la Francia. E quindi dice si scarica sull'Italia questo ma problema? Invece di dire se fallisce il debitore, fallisce anche il creditore o no? Certo. Allora, se saltano le banche tedesche, francesi e quel che lei, saltano anche quei paesi. A quel punto era necessario un transfer di responsabilità. E abbiamo pagato noi? Assolutamente sì, ma con il signor Monti, che è stato chiamato per firmare il conto dei tedeschi e dei francesi a carico degli italiani. E quindi la guerra dello spread è una guerra artificiale, fatta per avere quel risultato. Se al 31 maggio del 2011 la Banca d'Italia dice che l'Italia ha un deficit meno degli altri, deve fare correzioni meno degli altri e il bilancio al 2014 è appropriato, cavolo, non è che un grande paese in un mese va nel bene, e quindi è stata una falsa catastrofe indotta, se ho capito. Solo nell'interesse del nord. Solo nell'interesse del nord. Il paese. Però, senatore Tremonti, l'origine dei nostri mali è l'ingresso nell'euro, secondo lei o no? No, direi di no. I nostri mali antichi e non dipendono solo dall'euro. Senta cosa diceva Carli sulla nascita dell'euro. Se l'Europa fallirà questo appuntamento, la prospettiva è quella di un brusco ritorno agli anni 30. Il ritorno ai nazionalismi sarà inevitabile. Basta un non nulla per tornare esattamente allo scenario dell'inizio degli anni 30, prima che Hitler diventasse cancelliere. L'auspicio è che il nuovo vincolo esterno, rappresentato dall'Unione Economica e Monetaria, sia anche l'ultimo e che gli uomini che si troveranno a ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini della nostra Repubblica sappiano far scaturire dall'interno dell'ordinamento nazionale quei principi che fino ad oggi abbiamo derivato dall'esterno. Il vincolo esterno è la nostra condanna, non la nostra speranza. Il vincolo esterno è la storia atlantica, certo, anticomunista. L'applicazione del vincolo sull'euro, dice la voce, ritorniamo agli anni 30. C'ho come Carli, l'impressione che stiamo tornando a quello spirito per causa dell'euro, per come è stato gestito. Senta, l'euro doveva unire portafogli per poi unire i cuori. Per ora non ce l'ha fatta, ci riuscirà. Bisogna di nuovo unire i cuori, se ci si riesce, e poi i portafogli. In ogni caso non puoi avere in Europa che i tedeschi hanno solo le virtù e gli altri hanno solo i vizi. Certo, ma in Europa, ma un euro, diciamo, che si è costruito su un'Europa 27, senza guerre, diventando un mercato di 500 milioni di persone alfabetizzate, questo è un valore da conservare o no? Ma guardi, intanto quella delle guerre è abbastanza una balla, anzi, se c'è un rischio di guerre lo sta causando, secondo un'antica profezia americana, proprio l'euro. Ma le pare che c'era il rischio di guerra in Germania, quando la Germania era divisa in due e aveva i carri armati russi alle porte di Berlino. Beh, però, insomma, la storia delle guerre in Europa è una storia drammatica. Ma infatti c'è il rischio che torniamo se questa gente continua a gestire l'euro in questo modo. Ecco, senta Prodi sul rischio di uscita dall'euro. Non possiamo mica pensare che nella globalizzazione del mondo, che è diventato così grande, i singoli paesi possono resistere. Se lo vogliamo fare, se possiamo benissimo pensare di tornare indietro, con il che è finita, con il che l'Europa, i paesi europei non avranno più niente da dire per secoli e secoli. In questo momento, oserei dire fortunatamente, anche se la parola, l'avverbio non va bene, abbiamo altri paesi che condividono i nostri problemi, cioè la Spagna e anche la Francia stessa, e quindi bisogna avere una politica economica alternativa volta allo sviluppo. Renzi sta facendo questo nella giusta direzione, abbiamo però bisogno di alleati, perché se no, se picchiamo i pugni sul tavolo da solo, da soli ci rompiamo le dita e non otteniamo nulla. Ha ragione? Non ci credo, come dice. No, guardi, nessuno può resistere da solo, ma nessuno può comandare da solo. Ma esiste. E se Prodi pensa che la Francia viene dalla nostra parte staccandosi dalla Germania, la Francia usa la Germania per mascherare la sua debolezza e la Germania usa la Francia per parlare di Europa. Quindi siamo solo Europa mediterranea. Noi dobbiamo contare, bloccare tutto, chiedere dentro questo sistema se si fa così. Certo, se, ma esiste un'ipotesi? Se vai in giro a fare il piacione, no. Ma se esiste un'ipotesi di euro mediterraneo o qualcosa del genere, oppure no? Ma è una cavolata. No. E questo secondo tempo dell'Italia in Europa, allora che caratteristiche deve avere, in due parole? Guardi, l'Europa funziona con i cosiddetti punti A. Prima dei consigli c'è un elenco di cose che tutti dicono ok, va bene. Comincia a dire di no sui punti A, poi comincia a contare. Senta la ricetta di De Benedetti per affrontare la questione del debito, che è un problema importante per noi. Io ho una mia idea sulla ristrutturazione del debito italiano, di cui ho combinato con Renzi che parleremo prossimamente. Non ci vuol dire una piccola anticipazione? No. Titoli? Tanto, una copertina? I debiti nessuno li ha mai, gli stati non li hanno mai pagati. Vabbè, è tutto dici. Vabbè, mi sembra un bel titolo, prima pagina, 9 colonne. Non paghiamo i debiti. Che dice? Se lo dice lui. Lei parla di rimpatrio del debito pubblico, è qualcosa di simile a quello che ha detto De Benedetti? Assolutamente no. L'Italia è un paese che importa debito perché mette sul mercato titoli di debito italiani e gli altri li comprano e quindi ci indebitiamo, ma esporta capitali. Ogni anno gli italiani comprano 40.000 case all'estero e comunque mettono molti soldi all'estero. Se ci fosse un governo stabile e credibile, offrendo, si ricorda una volta i titoli erano esenti da ogni imposta presente e futura. Sì. Devi dargli un regime di privilegio e di favore, di esenzione. Sono esenti quelli esteri perché certo. I bot italiani dati all'estero. Dopodiché ci vuole un governo che non cambia. Ecco, ma un governo come questo può convincere la gente a fare questo? Ma guardi, un governo come quello di Monti, che ha rimangiato la parola dello Stato e ha fatto una cosa retroattiva, per esempio, ti viene come il dubbio, e anche adesso per gli 80 euro di bonus, prima dicono le imprese, poi fare una cosa, poi ti dicono, ops, abbiamo sbagliato, paga indietro, non va mica bene. Senta, senatore, lei nel libro dice, cioè cosa vuol dire quando parla dicendo che nella Repubblica Internazionale del Denaro non è più lo Stato a scegliere come tassare la ricchezza, ma è la ricchezza che sceglie dove e per quanto tempo essere tassata? Ma questa è una roba che scrivo da 20 anni, da quando è finito il muro e si è aperto il mercato globale, la ricchezza esce dai confini degli stati e va un po' dove le conviene. Ovviamente la ricchezza vera, non la ricchezza dei ciputi. Senta, ma lei dice che le nuove repubbliche digitali, Google, Amazon, Facebook, eccetera, si modellano e agiscono come stati di nuovo tipo, cioè? Allora, questo è un punto, grazie per la domanda. Allora, siamo messi così. Fino a, come dire, le industrie vanno a pagare le tasse dove vogliono. Ieri sui giornali c'è scritto le industrie americane lasciano fuori 100 miliardi di profitti. Sì. E quella è una specie di nomadismo, diciamo vecchio stile. Quello che sta succedendo è un salto di qualità totale, vitale. Se lei sente cosa dicono Google, Amazon, Facebook al Congresso americano, che li accusa di fare la stessa cosa e non pagare le tasse, quelli dicono no, non siamo noi che sbagliamo, siete voi. Dovete adeguarvi, gli stati si devono adeguare alle nostre esigenze, questo è il punto. Perché stanno diventando loro stessi i nuovi stati, hanno le loro autostrade, battono la loro moneta, il bitcoin, hanno le loro sedi di democrazia liquida, di agora, sono i nuovi stati, sono le nuove repubbliche. A me non piace mica tanto, ma è la fatalità verso cui stiamo andando. Ecco, ma lei dice questa rivoluzione si controlla solo con una fiscalità avveniristica e semplice. No, non è il vecchio mondo che era quello appunto del nomadismo. Devi fare delle robe. Lei c'ha delle industrie che hanno gli stabilimenti. Ma magari, che cos'è questa fiscalità avveniristica? Ma fagli pagare il 10%, che meglio. Dalle mie parti si dice piuttosto che niente, meglio piuttosto. Se gli chiedi 50 e non prendi un tubo, magari è più intelligente prendere 10. Senta, si fa per dire 10. Certo, ma allora. Battaglie come la web tax, per esempio, in questo scenario, secondo lei, diventano battaglie di libertà e di civiltà? Ma se tu credi nella politica, negli stati e nei governi, sì, ma dovresti avere una politica degli stati e dei governi che si uniscono e capiscono. La vede molto difficile. In realtà, la mia impressione, avendoli come visti in giro, è che capiscono un po' un tubo. Senta, lei ha sempre detto che alla fine della storia contano più i valori degli interessi, non mi pare. Non siamo alla fine della storia, però. Alla fine della fiera, volevo dire, no? Cioè, dire, no, io sono convinto che arriva un momento in cui contano gli antichi valori, la tradizione, la patria. Patria deriva da pater, è la terra dove riposano le ossa dei tuoi genitori. Ma oggi sono in campo questi valori da qualche parte? Sono in campo più nel cuore e nella mente delle persone che non nel portafoglio di quelli che alla parola valori ti dicono valori immobiliari, ma ci sono e ci saranno. Senta, senatore, tutti le riconoscono intelligenza e visione, ma anche un pessimo carattere, è vero? Se lo dice lei. Ma qual è il difetto che le ha nuociuto di più nella sua vita professionale e politica? Ma guardi, probabilmente un carattere non particolarmente facile, però non mi dica che sono antipatico. No, non ci penso proprio. Oh, ecco. Lo puoi ripetere? Non ci penso proprio. Grazie. Ma con Berlusconi lo scontro è stato più di potere o di carattere? No, è stato solo... Guardi, dal 2008 al 2011 abbiamo deciso insieme e, devo dire, teneva lui, perché... Certo. Parlamento era lui che teneva. Certo. Dal 2008 al 2011 la politica economica del governo Berlusconi è stata considerata in Europa tra le migliori d'Europa. Mm. Va bene? Va bene. Dopo c'è stato un confronto di linee politiche. Mm. Io gliel'ho detta anche in inglese, ho detto sta venendo fuori un casino, un caos terribile. Sì. E vula bass e schiva i sass. Stiamo, altri l'hanno convinto che ci voleva coraggio e non prudenza, ma è stato comunque un confronto politico. Senta, ma quali qualità riconosce Berlusconi? Un carattere molto forte. Lei prima di tutti ha detto che la globalizzazione così come era, come veniva avanti, era troppo veloce, troppo pericolosa. È quello che pensa sempre, eh? Quando hanno scoperto l'America geografica ha cambiato il mondo, ma ha occupato questo cambiamento due secoli. La scoperta economica dell'Asia in 20 anni, tutto è stato troppo veloce e violento. Ecco, un danno certamente, almeno in Occidente, questa globalizzazione veloce l'ha fatto, si è allargata la forbice tra ricchi e poveri, è rimediabile. Io ho scritto, faccio il professore, quindi ho scritto... Faccia pure. Nel 95 ho scritto un libro, Il fantasma della povertà. Sì. In Occidente arrivava la povertà, in Oriente quel libro era con Luttwak, che invece diceva il turbo capitalismo. In effetti l'Oriente e l'Asia sono saliti e l'Occidente è sceso. Ma ci sono strumenti per rimettere in moto l'ascensore sociale qui da noi che si è bloccato? Assolutamente sì. Una cosa per tutti, più libertà. Troppe regole bloccano tutto. Più libertà aiuta tutti. Senta, senatore Tremonti, intanto l'Europa è impantanata e incapace di azione, si è visto in Ucraina. È Putin che detterà sempre più l'agenda politica per l'Europa? No, è l'agenda energetica, poi alla fine contano anche i soldi. Appunto, quindi è Putin. Conta anche, come dicono a Milano, chi l'è il rilevatore, cioè chi è che poi gli compra il suo gas. Beh, intanto i cinesi, sembra che comincino a comprarglielo. È stata un'abile mossa, però prima che mettono giù i tubi ce ne vuole. Senta, ma vede un rischio di ritorno alla guerra fredda tra Russia e Stati Uniti? No, guardi, la guerra fredda aveva due armi, come nei computer, l'hardware e il software. L'hardware russo faceva un po' ridere, il software, che era la dottrina comunista, era la vera arma che animava e dominava alla fine quasi il mondo. Non ci crede più nessuno. Vede, per battere i nazisti è servita una guerra mondiale, per battere i comunisti, il comunismo, è stato sufficiente un supermercato. Senta, in queste condizioni noi rischiamo però intanto di pagare di più la nostra bolletta energetica firmata a Putin o no? Penso che sia uno dei problemi che ci abbiamo. Certo, se poi blocchiamo i gasificatori, il nucleare e tutto questo, poi è chiaro che la bolletta... Possiamo solo importarla. Senta, senatore Tremonti, ma c'è una speranza che le ragioni dei popoli siano più forti di quelle del denaro per davvero? Sì, e non è neanche una utopia. Fino agli anni 90, a partire dalla grande crisi degli anni 30, c'era una legge in tutto il mondo che diceva: se raccogli il risparmio dei cittadini lo puoi usare solo per investimenti produttivi e non per speculare. Dagli anni 90 in poi, dappertutto nel mondo, il risparmio dei cittadini viene usato o usato come leva anche per speculare. Se vuoi speculare, fallo, ma sono cavoli tuoi. Ci vuole una legge che blocca questo. Questa è la grande etica da cui partire. Ma che verità bisogna cominciare a dire sempre e con forza, inesorabilmente, a qualunque prezzo? Questa, per esempio, cioè dire basta con il casino del denaro, dei soldi. Guardi, negli anni Ottanta la massa finanziaria internazionale era 500 miliardi di dollari, oggi è 100 trilioni di dollari. La verità è che così non sta in piedi e prima o poi torna a venire giù tutto, peggio di prima. prima sono stati usati nel 2008 i bilanci pubblici, sì, poi sì, hanno cominciato a stampare moneta. La prossima e la prossima? La cosiddetta Unione Bancaria Europea è fatta per la ordinata risoluzione delle crisi bancarie, quindi vuol dire che hanno paura delle crisi, anch'io avrei paura delle crisi bancarie. Come le risolvono? I soldi dei governi sono finiti, la stampa della moneta è finita, pensano di zampare via i risparmi dei cittadini e lo chiamano in inglese bail in. Cioè tasche, prendere i soldi dove sono, nelle tasche dei risparmiatori. Esatto, dei depositanti e dei correntisti. Dopodiché, quello che capiterà secondo lei? Beh, è già capitato a Cipro, veda un po'. Lei scrive, sono le idee che determinano i fatti. Dopo quello che abbiamo detto qua, allora quali sono le idee e i fatti nelle quali dobbiamo sperare per rivedere la luce? Ma gliel'ho già detto, non credere più ai maghi del denaro, ai santoni della finanza, ai banchieri centrali. Vabbè, lì ci sta veramente... E poi cominciare a credere in noi stessi, nel lavoro, nella libertà di lavorare. Nell'industria. No, non possiamo... Nell'industria. Vera. Quando parlavo della manifattura, esatto. Senta, lei un giorno mi ha detto, la cosa che mi fa più arrabbiare è quando mi dicono che sono un tecnico e non un politico. Ecco, qual è oggi l'obiettivo del politico, Tremonti? Beh, di continuare a fare sia il tecnico che il politico. Ah, le piace di più adesso da parlare tecnico? Assolutamente no. Ma sarà lei? No, siccome tutti dicevano, sei un... Sa cosa mi faceva arrabbiare? Quando dicevano sei un professore, come per dire sei un pirla. Va bene. Senta, a volte succede che i professori siano pirla, ma succede. Anche che i pirla non siano professori. Senta, sarà lei a far rinascere il centrodestra? No, forse il centrodestra a tirare fuori delle persone. Ma chi? È ancora presto per dirlo. Le dico non una... quelli che sono sulla scena. Non lo so, guardi, di una cosa sono convinto. Non è più il tempo delle figure leader carismatici. Adesso per il centrodestra gruppo deve venire come è stato e come è per tanti partiti in Europa, gruppi di persone. Gruppi di questo non vuol dire che Berlusconi non sia stato un grande leader, però il dopo, ammesso che ci sia, credo che sia infinito, il dopo può essere solo fatto da Berlusconi è infinito da un gruppo di persone. Ma tra quelli che ci sono un nome me lo fa? Tre nomi, visto che deve essere un gruppo. No, uno è Tremonti, l'altro non gli è, neanche, no, perché li rovino. Oh, mamma mia, roviniamo solo Tremonti allora, uno, ma ne teniamo uno solo, va bene. Senta, in questi 20 anni qual è l'errore più grande che ha fatto il centrodestra? Di non esistere come centrodestra, cioè come gruppo. È stato felicemente, devo dire, c'ero dentro anch'io, ho inventato l'idea, la roba è una monarchia temperata da un alto grado di anarchia. E cioè dire tutti erano più o meno liberi di dire quello che volevano, a volte giusto, a volte sbagliato, c'era comunque un sistema di comando e di rispetto. Senta, nel centro-sinistra una battuta perché siamo in finale? L'errore più grande del centro-sinistra? Delle regioni? Guardi, due cose vere e serie. Due, rapide. Negli anni 90, totalmente dominati dal centro-sinistra, sì? Due cavolate pazzesche. Una, le leggi Bassanini che hanno distrutto lo Stato, sì, mettendo nello Stato il mercato e creando uno Stato parallelo, vedi le municipalizzate. E il secondo, metterci sopra questo federalismo del cavolo col titolo quinto. Senta, senatore, le faccio un'ultima domanda. In pochi giorni lei è passato da tanto potere a zero potere. Che cosa le ha insegnato questo passaggio che non dimenticherà più? Ma chi gliel'ha detto? Primo, vede, quando lei c'ha un computer, che è la macchina moderna, lei c'ha l'hardware e il software. Okay. L'hardware è il potere bestiale che c'hai al governo. Il software sono le idee. Servono tutte e due. Se lei è software ma non ha il computer, ma il software non è mica male, le posso assicurare, come le ho detto. Insomma, le bastano le idee. No, ho detto che sono le idee che creano i fatti. Va bene. Allora auguri. Grazie. Mix 24 800 24 00 24 il numero verde 349 238 6666 l'SMS. Titolo del faccia a faccia, Mario. Non è una questione di sola moneta. Pietrangelo. Catastrofe percepita fu. Mamma non capasso mio, sta frevi mi già sin dall'os, cu tutto ca fora c'ha guerra, mi sento scianizza d'amore. Sempre in metropolitana, Pietrangelo. Sempre in metropolitana, un cespo di gelsomino. È successo questo: in un vagone tra le seggiole e il reggimano è sbucato d'improvviso un cespo di gelsomino. C'aveva i fiori squillanti, era tutto a Roma, le donne avevano gli occhi di luce, gli uomini erano tutti accesi, i bambini e i ragazzini erano proprio sorpresi da questa apparizione, soprattutto quando dal ramo più verde saltò fuori una lucertola parlante che disse... E scianizza d'amore. Scianizza d'amore. Strano. Battiato. No, ma guarda, mi sa che è siciliano. Sorpresa. No, deve essere. È ma proprio... nella tua pentola oggi cosa bolle, Mario? Andiamo. Vuoto Antonio, italiani! Beh, insomma, ci siamo. Siamo alle battute finali, che dire, piazze piene, urne vuote, perché questo è uno dei temi che sta emergendo in queste ore. Lo disse Pietro Nenni nel 48 per descrivere la sconfitta della sinistra e la sua assenza di prudenza all'epoca. Ieri Piazza Duomo per Grillo, forse non era stracolma, ma comunque, pur piovendo, era piena, sì, bisogna dire la verità, tanta gente, effettivamente. E Piazza del Popolo con Renzi, mi spiace, ma dava proprio l'impressione di essere semipiena, semivuota, sai, qua c'è la metafora, no? Semipiena. Non so, semipiccola. Non sanno che gli ascoltatori devono sapere che Giulio Tremonti è rimasto, a rischio della sua vita, è rimasto qui con noi. E insomma, il tema esiste, vorrà dire qualcosa, tutto e niente in questi casi, si sanno che poi contano i voti, però stasera Grillo sarà a Piazza San Giovanni, vediamo che cosa succede, e poi si vota. E purtroppo non sarà finita, perché ci sarà l'analisi del voto, del post-voto, e si dimenticherà un po' la cosa più importante, che invece nell'intervista con Tremonti che hai fatto tu, secondo me, è emersa, cioè il problema dell'Europa. Ma poi, in fondo, caro Giovanni, caro Giulio, caro Pietrangelo, ma destra e sinistra, che cosa sono? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Il grande Gaber. E intanto continuiamo questa narrazione. Nel Regno Unito si è votato per le europee. I risultati delle europee si sapranno domenica dopo le 22. Però si è votato anche per le elezioni locali. E qui, secondo me, bisogna far partire un'altra musica. Che Dio salvi la regina. Sai che Tremonti ogni tanto mi raccontava delle sue sortite ad Oxford, vero Giulio? Dio salvi la regina. Perché? Perché gli UKIP, che voi sapete, il movimento, il partito euroscettico inglese, del Regno Unito, veramente ha conquistato a Londra i consigli locali di Hammersmith, Fulham e Cambridge. Ha portato via un sacco di seggi al Labour, che è andato male, ai Tories, che stanno malissimo, e ai Lib Dem, che addirittura crollano. Lì c'è un tema, hanno un referendum da fissare su stare o meno dentro l'Unione Europea, hanno un referendum già fissato sulla scissione, sull'indipendenza della Scozia. Che succederà? Non lo so, in Olanda Geert Wilders per esempio non è andato bene. Appunto, e che quindi dice, vedremo Tremonti? Domenica. Qui faccio il consulente. E cosa succede? No, quello che dovremmo contare non è solo il numero dei votanti o per chi hanno votato, ma il numero degli astenuti, che è mostruoso. E non sono astenuti che fanno... va tutto bene l'SFR, è l'opposto, sono astenuti ostili. Quindi se, come in Olanda, è andato a votare solo il 37, vuol dire che da 37 a 100 è tutta gente incavolata nera, o peggio ancora non gliene frega niente. Non gliene frega niente. È tempo di Salamin. Right. Salamini con tanto di anniversario. Ma dice Crocetto, Giovanni Fiandaca è negazionista e offusca la memoria di Pio La Torre. Da lui, dice Crocetto, ci divide un'idea di lotta alla mafia. Riteniamo che il sistema di potere sia intriso di un potere antico che ha distrutto la Sicilia. Senti che parla, parla Crocetto, in tema di distruzione. Intanto Bruno Tinti dal Fatto ci fa sapere che chi affitta le macchine dà un avviso in Sicilia: non usate il navigatore, vi porta in strade che è meglio evitare. Ma tornando a Crocetto, c'è un'intervista oggi di Peppino Sottile a Emanuele Macaluso che mette i puntini sugli... Allora, Emanuele Macaluso, amico caro di Napolitano, dice: Renzi, difenda Fiandaca dai mozzorecchi del Partito Democratico, gente che vive di trasformismo. Togliamo la musica? Oggi, 23 maggio, si piange Giovanni Falcone e Macaluso dice: vorrei ricordare che Falcone fu vittima delle stesse aggressioni che oggi subisce Fiandaca. E 22 anni fa Giovanni Falcone veniva ucciso a Capaci insieme a sua moglie Francesca Morvillo, tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Ciglio e Antonio Montinaro. Voglio dire qui pubblicamente a Giovanni Falcone, allora, che secondo me farebbe bene ad andarsene al più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché mi pare che l'aria non gli fa bene, non gli fa bene proprio. Questa è una tua opinione soggettiva. Sì, è un'opinione mia. E questo significa mancanza di senso dello Stato. No, questo a me pare invece in realtà senso della indipendenza e dell'autonomia della magistratura, perché i politici... Il posto che io ricopro è un posto previsto per magistrati, non c'entra niente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ci si va sempre col gradimento del ministro. Ma questo forse vale per te, scusa. No, perché io non ci sono mai andato. Ma tu forse questi sono i tuoi problemi, certamente non sono i miei. Non ci sono mai andato, quindi non sono i miei problemi, perché non sono stato al Ministero di Grazia e Giustizia. E comunque Giovanni, non mi piace che stai dentro il palazzo di governo, non mi piace. Questo era Alfredo Galasso in una trasmissione di Samarcanda che attaccava Giovanni Falcone, un uomo che era sempre più solo. Oggi, nella seconda ora, racconteremo la vera storia delle difficoltà che ha avuto in vita Giovanni Falcone. Quota rosa. Questa vi interessa, questa quota rosa. Una quota arcobaleno, diciamo, perché è stata emessa una sentenza di primo grado dal Tribunale di Roma che ha detto questo: a prescindere da come andranno i prossimi gradi di giudizio, ovviamente, comunque lascerà il segno. Una mamma e suo figlio decidono a distanza di anni di chiedere il test del DNA al presunto padre, ma lui, guarda caso, si rifiuta. Allora il giudice desume che, proprio per il suo rifiuto di sottoporsi a un test decisivo come quello del DNA, è lui il padre. Quindi merito al coraggio di questo giudice che ha superato gli equivoci del legislatore, e quindi ognuno si assuma le proprie responsabilità, ma se vogliamo le pari opportunità. Sta diventando un po' troppo seria questa sera, no, Tardelli. È discutibile questa. Discuteranno infatti, che discutano. Mix 24. Abbiamo gli ospiti? Musica, gli ospiti, dove? Sara! Eccoli! Hanno da fare in questi giorni, Dudu e Aiace, sono stanchissimi, ragazzi, accoglieteli bene! Siamo qua! Certo! Pronto, buongiorno! Allora, abbiamo Dudu che è più piccolino e parla sempre per primo. Sì. Mario, vuoi fare la tua domanda a Dudu? Sì, no, io ne approfitto per chiedere a Dudu, che conosce bene tutto l'inner circle del Cavaliere, se è contento del fatto che noi qui abbiamo in studio Giulio Tremonti, perché io penso che Dudu abbia da esprimersi su questo. Grazie, allora dice: ho grande stima di Giulio Tremonti, e poi sì, dice che non può esprimere un'opinione se prima non entra in camera Maria Rosaria Rossi, che deve firmare l'autorizzazione. Io sono un cane fedele e obbediente. Come tutti i cani. Però se non arriva Maria Rosaria Rossi, posso comunque anche avere una domanda da Tremonti, se vuole. Certo. Vediamo, Tremonti, una domanda da Dudu. C'è una domanda per Dudu? Una domanda per Dudu. Io ho ereditato 4 gatti e quindi ho qualche difficoltà a dialogare, no? Cioè, non vorrei che fossero... Poi che diventasse una rissa. No, poi sai che vanno d'accordo. Però io ho 4 gatti e per me... Sentiamo se vuole. Come al solito, Tremonti ha colto nel segno e vorrei qui fare una pubblica denuncia. I gatti dispettosi voteranno tutti... per Grillo. No. Beh, ma d'altronde noi l'abbiamo avuto Tremonti. Il gatto, ti ricordi il gatto di Grillo? Ma vabbè, sentiamo. Aiace. Pronto, Aiace? Aiace? Eccolo. Giovanni, allora, queste piazze, mezze piene, mezze vuote, avvicinano o allontanano il Quirinale? Apprezzo molto il suo modo di fare domande. Ancora? No. La sua... grande capacità, ma sempre costringere alle risposte, ma vorrei sottolineare la regalità del Quirinale, dove non c'è bisogno della piazza, ma di parlamentari ben orientati che sappiano votare al momento giusto. Chiarissimo, mazza, imperiale. Dopodiché dice... Dice ancora? Che mi dispiace tanto che finisca qui il nostro impegno. Si andrà a votare, si andrà a votare. Però a lui continua a dire che gli piace il Matteo Vero, quello selvaggio. Va bene. Ma chi è? La bolla, chi è? La bolla Salvini. L'ultima bolla. Vai con la bolla. La Benomics è costituita da 3 frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Allora, è un discorso di Shinzo Abe e devo richiamare ancora una volta, diciamo, le imprese del premier giapponese, perché ha fatto un discorso fantastico a un convegno internazionale sul futuro dell'Asia. Vorrei richiamarlo perché in queste ore gli italiani, gli europei votano, si è sentito poco parlare di discorsi del futuro e questo era un discorso, poi cercherò di tradurlo e di metterlo a disposizione online, sui prossimi 20 anni. Non solo del Giappone ma dell'Asia, un paese che viene da una deflazione pazzesca, come sapete tutti, molti non hanno mai vissuto la crescita, e c'è un passaggio secondo me bellissimo dove dice una cosa essenziale, dice: chi aveva 20 anni allora e oggi ne ha 40 non ha mai vissuto il momento elettrizzante della crescita, e dice: per il futuro, per il Giappone non sarà più così. Speriamo che sia vero. Senti, ci hanno scritto: basta con Dudu, ogni volta il mio cane lo sente alla radio e diventa matto. professor Simonelli, buongiorno, come va? Buongiorno. Dov'è? In metropolitana anche lei? Anche oggi in metropolitana. Ma sì, oramai sempre e com'è la sua metropolitana? Ben frequentata? Sì, ben frequentata, ma priva, come dicevo ieri, di quegli elementi poetici che invece butta fuoco. Posso dire, professore, perché io la metropolitana la prendo prestissimo quando c'è la presenza di pii e religiosi che fondono poesia e preghiera. Proverò anch'io a fare così, vediamo se il problema è... Vabbè, intanto, professore, ieri sera, dov'era il canone in televisione? Ieri sera era su Rai 5, serata tutta dedicata a Mozart, ma non è, attenzione, non è il contenuto, non è Mozart che fa il canone, ma è il modo con cui è stato trattato. 2 elementi fondamentali. 1, la diretta, cosa sempre più rara in televisione. Una diretta dall'Auditorium di Torino, l'Orchestra Sinfonica della Rai ha suonato molto bene con un grande direttore, un tedesco ormai italianizzato, molto simpatico anche, che ha fatto anche un'introduzione. Vabbè, lì c'era il canone. No, perché poi c'era ancora dopo. Beh, Rai 5 è la nostra regina proprio. Abbiamo eletta. una serata monografica. Dopo c'era un bravissimo musicologo che ha spiegato il fascino di Amadè, cioè Mozart come lo chiamavano gli italiani. Quindi è questa monografia, un percorso tutta la sera dedicato a Mozart con due tipi diversi di televisione. Bravo D'Alessandro. Bravissimo, bravo D'Alessandro. Niente, canone altrove. Professor Tremonti, lei aspetti, professore. Lei il canone l'ha visto ieri sera da qualche parte? La televisione la guarda? No, la guardo. Ieri no. Niente canone. Ieri sera niente canone per Tremonti. Allora, volete una notizia? Sì. Un minuto della Germania. No, aspetta. Vai. Però un monito che ci ha dato Tremonti, bisogna sottolinearlo che è fantastico. Allora, forse qualche professore pirla, nessun pirla, però diventerà professore. No, non è così esatto. Era una variante sulla storia di Cacania. Music. Mi sono un po' confuso, insomma. Visto che c'è Tremonti, il PIL della Germania è confermato a più 2,5% su base annua, è appena uscita la conferma. Quindi primo trimestre è 0,8 e poi proiezione sul resto. Senta, professor Simonelli, che cosa consiglia di vedere in televisione? Da canone, televisione da canone per il weekend. Sarà un weekend sportivo. Formula 1 a Monte Carlo. Vabbè. Giro d'Italia sulle Alpi. Monte Carlo, no, sì, sulla Rai, sì. Finale di Champions League, ma la vera partita, sapete qual è? Dovete aspettare fino a lunedì sera. Dica. Perché lunedì sera Vespa sfida il Grande Fratello. Mentre Rai 1 fa uno speciale sulle elezioni europee, Canale 5 continua imperterrito con la finale del Grande Fratello. Va bene, vedremo. Grazie professore. Professor Tremonti, posso dire cosa su PIL tedesco? Sì. No. Yeah. Quello che ho appena letto, che vogliono alzare il PIL di tutti, anche quello italiano, mettendoci dentro i profitti attività illecite. Risultato: le attività illecite continueranno a non pagare le tasse, ma l'Europa chiederà le tasse europee, i contributi anche sul PIL delle attività illecite. Così loro continuano a evadere, ma noi non possiamo evadere. Mi sembra geniale. Per la storia oggi va in onda una puntata di Cristina Fratelloni, raccontata come sempre da Marina Milone, quella di Giovanni Falcone. Alla fine un'intervista con Francesco Lalicata, amico di Falcone.